L'altra Europa. Benvenuti in diretta all'Altra Europa dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa. L'attualità economica e politica viene raccontata ogni giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di offrire anche altre sfumature, altri punti di vista, altre sfaccettature. Un programma in collaborazione con il portale Euronet, euronet.eu, l'indirizzo internet di questo network paneuropeo, tante radio, tante voci diverse, anche argomenti comuni che ognuno cerca di affrontare poi a proprio modo. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure su Twitter, @FedericoTaddia. Ogni settimana un viaggio, la prima tappa oggi è la Spagna. Jetas como estas están repartiendo estos días en Valencia. Anuncian un curso sobre prostitución. Esa no es una profesión como tal que deba de estudiarse y así promocionarse. Brandon es el encargado de impartirlo. Él ejerce la prostitución desde hace 8 años. Dice que con el curso los profesionales del sexo estarán más formados. Que sepa lo que está haciendo más que todo. La prostituzione realmente su una scuola di prostituzione contro la crisi, questo è il titolo che è stato riportato da diversi quotidiani online, questa notizia che ha fatto presto il giro del mondo. Siamo a Valencia. E dove è nata questa sorta di accademia del piacere? È proprio una scuola dove si fornisce una formazione professionale per apprendere i segreti e i rudimenti del mestiere più antico del mondo. Aperto da qualche mese, tantissimi iscritti, almeno un centinaio, il 60% di loro sono uomini, e problemi anche con la legge, perché in questi giorni proprio c'è un'inchiesta per incitamento alla prostituzione, quindi un reato. Insomma, tanto parlare attorno a questa accademia, volevamo approfondire l'argomento e quindi abbiamo sguinzagliato il nostro inviato speciale in Spagna. Diamo il ben ritrovato a Tony Polo. Ciao Tony. Buongiorno. Ormai quando c'è qualcosa di scottante telefoniamo a te, ormai l'hai capito, vero? Va benissimo. Come stai intanto, Tony? Allora, ti spiego, io questa Accademia del Piacere, non, adesso dicono che non sia tale accademia, no? Semplicemente sono dei corsi. Il fatto è che si sono stati distribuendo dei fogliettini in giro per Valencia, nelle macchine, nel parabrezza delle macchine, così, e dove c'era scritto appunto molto, molto chiaramente... C'era scritto corso basico di prostituzione professionista, trova lavoro subito. Quindi dici, bisogna sapere cos'è, se una cosa è di formare prostitute oppure di informazione, no? Certo. Ci sono stati problemi perché in Spagna, come mi pare pure in Italia, la prostituzione non è illegale, cioè fare la prostituta e prostituire non è illegale, quello che è illegale è incentivarlo, no? Incitare a praticare la prostituzione. Certo. Quindi quello che in Spagna è la fiscalia, mi sembra che in italiano sia il procuratore dello Stato, sì, è intervenuto per vuole chiarire se legalmente è possibile, se questo corso o questa accademia è legale oppure no. Ecco, sono corsi a pagamento, hanno un po' cavalcato la crisi per incentivare gli iscritti? Ecco, c'è anche questa faccenda della crisi, no? Come diciamo che con la crisi si pensa un po' a tutto, si cercano altre cose, si più creatività, e qui quello che hanno fatto è approfittare, no? La prostituzione per cercare di uscire dalla crisi. Io non so se su questi quasi 195, mi sembra che erano ieri, sì, persone che si sono interessate, che volevano fare i corsi, è vero che ci sono più uomini che donne, l'età è fra i 20 e i 45 anni, non so se c'è gente che veramente ha bisogno di lavoro e dice vabbè, qui si trova lavoro subito, se mi devo prostituire lo faccio pure. Il fatto che ieri io ho telefonato questa presunta accademia, non hanno voluto dire niente. Ah no, io ho parlato con una ragazza, mi ha detto che non è per niente un'accademia, che sono soltanto corsi di informazione, non mi ha saputo dire o non mi ha voluto dire se è per informazione per prostitute, per fare meglio il proprio lavoro, oppure per cercare di attirare gente. Questo sarebbe quello che sarebbe certamente illegale. Certo, adesso insomma sono un po' nell'occhio del ciclone, c'è l'attenzione dei giornalisti, quindi probabilmente stanno anche facendo un passo indietro. Leggevo nel programma di studi che si va da appunto corso di storia della prostituzione, economia, fino alle posizioni fondamentali del Kama Sutra, quindi insomma, c'è anche informazione teorica, okay. Tipo legislazione, quali malattie c'è il rischio di prendere, un'analisi economico dell'industria, della prostituzione e così via. Poi ci sono anche pratiche, perché per esempio questo delle posizioni del Kama Sutra, le abilità di ciascuno, qual è il gusto sessuale degli spagnoli, giocattoli erotici. Insomma, il programma è completo, bisogna capire appunto se si sta infrangendo la legge oppure no. E Tony, seguirai la cosa anche per le tue testate? Io la voglio seguire, soprattutto ora voglio riuscire a farmi vuoi ascoltare scrivere? Da loro. Ah, ok, ascoltare. Lui è stato praticamente... No, hanno detto, stiamo ridendo di quello che si sta pubblicando nei giornali. Okay. Vabbè, però bisogna vedere cosa c'è di certo e cosa di non certo. Vediamo soprattutto cosa dice il procuratore. Certo. Tony Polo, dalla Spagna, grazie come sempre, buon lavoro. Ciao Tony, grazie, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Europost-it. Spotted by Locals, il sito per visitare l'Europa autentica. Girare per Londra senza cadere nelle trappole turistiche e visitare Parigi senza interminabili code e menù preconfezionati è possibile. Spotted by Locals è il sito olandese che offre suggerimenti per chi ha in programma di visitare una città europea come se fosse un abitante del posto. Reporter autoctoni postano i loro consigli corredati di foto e video, caffè economici, scorci suggestivi, stravaganze e errori da evitare. Sono 41 le città recensite e per ognuna di queste è possibile scaricare una comoda guida e l'applicazione per smartphone. A proposito, in questo momento il team sta cercando uno spotter su Bratislava. Per informazioni visitate il sito spottedbylocals.com. Ser vaks ud. Jeg er klar til at komme i gang. Jeg skal have 3 børnehold nu. Lige om 2 minutter, så starter vi. Flotte gule farstriber. Der skal ske noget, jo. Altså, man skal selv gøre noget. Det kan ikke hjælpe noget, at man bare sætter sig hjemme i sofaen med armene over kors, og så regner med, at alle andre skal gøre noget for en. Man skal selv være aktiv. Quello che state ascoltando è uno spot promosso dalla Commissione Europea sull'invecchiamento attivo. Il 2012 è proprio l'anno dell'invecchiamento attivo, quindi tantissimi progetti europei destinati agli anziani, alla terza età, per trasformare questa fase della vita in una risorsa, in una opportunità. Si alza sempre di più l'età media in Europa, si alza anche l'età lavorativa, quindi in un'Europa, ahimè, comunque sempre più vecchia, si cerca di fare della vecchiaia non un momento di tramonto, ma un momento per una nuova vita. E tra i tanti progetti promossi ne abbiamo scelto uno assolutamente moderno, ed è quello legato all'educazione digitale degli anziani, un progetto che in Italia ha preso il nome di Nonni su Internet, è promosso dall'associazione Mondo Digitale, progetto che però ha varcato i confini italiani e si sta attivando anche in altri paesi europei. Per parlarne c'è con noi Alfonso Molina, che è professore di strategie delle tecnologie all'Università di Edimburgo e direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale. Ciao Alfonso, benvenuto all'Altra Europa. Grazie. So che sei a un convegno e ti stiamo disturbando, ma grazie insomma per aver accettato il nostro invito. Alfonso, cosa vuol dire fare educazione digitale con gli anziani e perché si parla di invecchiamento attivo, appunto partendo da un computer? Questo è perché ovviamente sta cambiando la demografia e l'aspettativa di vita si sta allungando e continuerà a allungarsi per la medicina preventiva in particolare. E questo genera un problema gigantesco per la società, no? Questo già lo sappiamo dal punto di vista delle pensioni, ma anche il paradigma dove il pensionato era scartato, diciamo, no? E le persone si dedicavano a vivere la ultima fase della vita quasi isolati o con la famiglia, questo anche sta cambiando. Perché oggi c'è bisogno, di fronte alle grandi sfide europee, no? E globali, a cui parlo non solo dell'invecchiamento della popolazione, parlo anche dell'ambiente e di altre sfide, come la riscoperta della saggezza dentro del contesto dell'educazione e tutto questo, rivalorizza, io credo, il potenziale dell'anziano nel contesto della società. E questo cambio nell'Europa ha portato già all'idea dell'invecchiamento attivo che nel programma Orizzonte 2020, sì. 2020 sta dentro delle priorità per confrontare, diciamo, tutto questo cambiamento che viene dentro di ogni paese, no? Certo. E educare all'utilizzo dei media vuol dire per gli anziani comunque raggiungere indipendenza, partecipazione alla vita sociale, ma anche interazione, perché sono tutte le possibilità che comunque l'utilizzo di un computer ti offre. Voi in più avete fatto questa scelta, non solo educazione ai nuovi media, ma un'educazione fatta utilizzando i giovani, quindi proprio uno scambio generazionale. Esattamente, qui ci sono tre grandi vantaggi, no? L'educazione con il mondo degli anziani, cioè il mondo dell'anziano è una parola che nasconde una diversità gigantesca, dove ogni anziano si deve parlare di una persona con la quale lavorare personalizzatamente, no? E nel progetto nostro, per esempio, la unica forma di poter personalizzare l'educazione e facendo coinvolgendo ai ragazzi che possono essere della scuola elementare verso la scuola superiore, sì. E questo ci permette di fare tre grandi benefici, no? Da una parte c'è un bisogno da parte dei giovani di imparare le competenze per la vita. Questo oggi è un aspetto molto molto riconosciuto dentro l'educazione del XXI secolo. Loro imparano a comunicare, a insegnare, a relazionarsi, la pazienza, infine una varietà di competenze che sono cruciali per il successo della vita nel XXI secolo. Gli anziani imparano la nuova tecnologia e diventano, nella parola del convegno qua, immigrati digitali, che possono usufruire tutti i servizi che stanno andando adesso in rete, il governo elettronico, l'utilizzo di Skype per comunicarsi, vedere familiari che possono essere in altri paesi. E io credo una cosa molto molto importante, che si rompe anche un divario generazionale, dove cadono gli stereotipi che il giovane ha dell'anziano e viceversa, e si creano anche relazioni molto belle, affettive, che aiutano a unire, no? le risorse di un paese per confrontare le sfide. Alfonso, un'ultima domanda. L'Italia, appunto, come promotrice di questo progetto, ma il resto d'Europa sono più avanti, nel senso c'è un'attenzione maggiore, o comunque gli anziani sono più abituati all'utilizzo di internet, o più o meno è un problema comune? Io credo che è un problema comune. In altri paesi ovviamente c'è stato un approccio più sistematico alla accessibilità della nuova tecnologia computer. Nel caso nostro noi abbiamo fatto parte del progetto un'operazione di riciclaggio di computer e abbiamo attrezzati centri di anziani per incrementare l'accessibilità. L'Italia ha un problema è quasi si vede in quasi tutte le cose, no? Che è la mancanza di approcci lungimiranti e sistematici, sì. No? E questo io credo che, mi auguro che adesso che è arrivata una crisi così grande questo comincia a cambiare. Certo, insomma, bisogna ottimizzare e quindi avere anche progetti a lungo termine fa parte di questa ottimizzazione. Grazie davvero ad Alfonso Molina, appunto professore di strategie delle tecnologie all'Università di Edimburgo e direttore scientifico di Mondo Digitale. I siti internet per tutte le informazioni: nonnisuinternet.it oppure mondodigitale.org. Ciao Alfonso, grazie e buon lavoro. Grazie. Europost-it. Imparare a fare impresa all'estero. Ecco l'Erasmus per i giovani imprenditori. Chi l'ha detto che l'Erasmus è un'opportunità solo per studenti in cerca di un'esperienza di studio e di vita all'estero? Anche i giovani imprenditori possono trascorrere un periodo in un paese europeo per migliorare la gestione e la crescita della propria azienda. Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi o aspiranti imprenditori l'opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese dell'Unione Europea. I partecipanti avranno l'occasione di imparare molto sugli ostacoli e le sfide odierne nel loro settore di mercato, individuare potenziali partner e acquisire competenze specifiche dall'azienda ospitante. Per avere tutte le informazioni necessarie, visitate il sito erasmus-entrepreneurs.eu. Rumori, voci, suoni, sono proteste degli scontri che si sono tenuti in questi giorni a Patrasso. Siamo in Grecia, dove la crisi, dove le elezioni, dove insomma la paura anche del diverso hanno scatenato questa ingiustificata violenza anti-immigrati. E si è visto anche insomma dal risultato delle elezioni con questa formazione, con questo partito xenofobo di Alba Dorata, insomma scontri di cui non si è parlato tanto, quindi volevamo capire veramente quello che sta accadendo e per farlo abbiamo invitato Margherita Dehaene, che è corrispondente di Radio Popolare e del mensile di Emergency. E ciao Margherita, ben trovata. Buongiorno, ben trovati. Tu hai seguito gli scontri lì a Patrasso, ne avevamo già parlato in precedenza di una situazione calda, esplosiva e la miccia, è stata il dopo elezioni di fatto. Sì, perché con le elezioni del 6 maggio Alba Doro, che è destra radicale, sono dei neonazisti, molti dei quali sono anche imputati e indagati per violenze fisiche anche, sono entrati in Parlamento con ben 21 deputati e quindi si è ben espressa quella che è una condizione di disagio sociale che è molto presente in Grecia, in tutti i luoghi in cui c'è una forte concentrazione di migranti. Patrasso, ricordo, essere il porto principale che lega la Grecia all'Italia e lì ci sono moltissimi migranti da anni che si accalcano, che privi di documenti di viaggio validi si nascondono in sostanza in attesa dell'occasione per andare via dalla Grecia dove sono imprigionati. Certo, Margherita, so anche, avendo fatto una chiacchiera con te prima, che Alba Dorata per esempio ha ottenuto tantissimi voti dai poliziotti, sono gli stessi poliziotti che in questo momento però stanno cercando di contenere appunto la violenza proprio dei militanti di Alba Dorata. Ma sì, è stata pubblicata un'inchiesta dal giornale Tuvima pochi giorni dopo le elezioni del 6 maggio in cui si dimostrava come negli elenchi speciali che ci sono nella prefettura di Atene per i poliziotti che votano fuori sede è risultato che in sostanza un poliziotto su due, se non altro in Attica, ha votato per Alba Doro. Dopodiché è successo che a Patrasso i migranti in questione vivevano da tempo in una fabbrica abbandonata vicino al porto e il tutto è nato perché gli abitanti in prossimità della fabbrica hanno organizzato una manifestazione, sono arrivati in pullman da tutta la Grecia probabilmente. Tantissimi pullman tra l'altro, leggevo. Sì, membri di Albadoro, i giornali dicono che fossero almeno 350, i quali si sono infiltrati nella manifestazione e hanno cercato di sfondare i cancelli della fabbrica abbandonata, e a quel punto la polizia è dovuta intervenire contro Albadorata e i suoi membri, e gli scontri sono stati molto, molto violenti già dalla prima notte, sono seguiti poi il giorno dopo, mentre in questo momento e anche ieri c'è tranquillità, gli abitanti da parte loro sono intenzionati a continuare le proteste e stanno cercando modi per protestare diversamente, per fronteggiare, diciamo, le infiltrazioni dei neonazisti. Certo. Dopodiché le autorità provinciali e comunali stanno ovviamente pensando a cosa possono fare. Una delle ipotesi che ho letto stamattina è stata lanciata dal prefetto ed è quella della creazione di un centro di accoglienza per i migranti galleggiante, su un modello olandese, quindi in sostanza una barca molto grande, una nave che si allarga e lontana dunque dai greci. Sì. Una sorta di ghetto nel ghetto. Sì. Margherita, un'ultima domanda, ma a Albadoro, appunto, abbiamo visto tutti il boom che ha avuto in queste recenti elezioni, ma è comunque un partito radicato nel territorio o è stato veramente una pericolosissima, ma comunque una fiammata e basta? Ma temo di dover dire che è abbastanza radicata ad Atene, nel centro storico, dove già nel novembre del 2010 Albadoro riuscì alle elezioni amministrative di allora a far eleggere il suo capo Nikos Michaloliakos quale consigliere comunale. E infatti al primo consiglio comunale che si tenne allora dopo le elezioni, Michaloliakos fece il saluto nazista. Dopodiché è chiaro come la crisi abbia inciso molto profondamente e il disagio economico di molti greci abbia trovato espressione in questa forma di protesta estrema. Dopodiché tutti i sondaggi di questi giorni sono moltissimi in vista delle prossime elezioni del 17 giugno, danno Albadoro come in discesa, e quindi vorrei sperare che non si tratti di un movimento politico radicalizzato o che possa cristallizzarsi, insomma, in una costante, diciamo, in un rivolgimento della cultura politica greca permanente. Certo. Margherita, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente per parlare poi delle elezioni, e ricordiamo anche il tuo sito margheritadean.wordpress.com per conoscere tutta la tua importante attività. Ciao e buon lavoro, grazie. Grazie mille, buongiorno. Europostit. Your rights, your future. La Commissione europea ci chiede un consiglio. Dato che il 2013 sarà l'anno europeo dei cittadini, la Direzione Generale Giustizia della Commissione europea ha lanciato un sondaggio pubblico sui diritti dei cittadini. Quali sono gli ostacoli che impediscono il libero esercizio della cittadinanza europea quando viaggiano in Europa, votano o si candidano alle elezioni? E ancora, quali sono le difficoltà che incontrano quando fanno acquisti online? Se volete far sentire la vostra voce e raccontare la vostra esperienza, scaricate il questionario online. I risultati saranno inseriti nella relazione che la Commissione europea presenterà tra un anno. Per informazioni cercate Your Rights, Your Future sul sito ec.europa.eu. Hey! Quello che state ascoltando è un concerto di chitarra flamenca realizzato all'interno dell'Istituto di Cultura Islamica a Parigi, uno dei tanti appuntamenti del Trans Europa Festival, questo festival in grado di contaminare culture, nazioni, linguaggi diversi, un festival che coinvolge 14 città europee, un festival che si è appunto svolto in queste settimane e che concluderà il 2-3 giugno con una grande agorà transnazionale al Teatro Valle di Roma. E tra le altre cose, oltre ad essere il culmine della festa, verrà anche presentato presso la Commissione europea il 31 maggio. Nel contesto dell'agorà verrà fatta lanciata la prima iniziativa dei cittadini europei. Per capire di cosa si tratta abbiamo con noi il co-direttore di European Alternatives. Diamo il benvenuto a Lorenzo Marsili. Ciao Lorenzo. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Vi abbiamo già conosciuti, abbiamo parlato del vostro festival nelle puntate scorse, però adesso c'è questo appuntamento politico, perché è un appuntamento politico importante. Il 31 maggio sarete a Bruxelles, se non erro. Cosa andrete a fare? Beh, diciamo, la considerazione di base è che quella strana commistione di interessi fra mercato privato e pubblico e governo, quella concentrazione del sistema dell'informazione che inibisce un effettivo pluralismo, non è solamente un'anomalia, un problema italiano, ma sempre più un problema europeo. L'Ungheria in questo è stato scuola. È recente il tentativo del governo di Viktor Orban di chiudere l'unica radio indipendente rimasta nel paese, il Club Radio, e di passare leggi che lo stesso OXA definisce liberticide. La situazione in Romania e in Bulgaria sta peggiorando, e anche nella civilissima Inghilterra abbiamo tutti quanti visto la situazione con Murdoch l'anno scorso. Quindi ci siamo detti che è un problema europeo, ci vuole una soluzione europea, e la mancanza fino ad oggi di una forte presa di posizione da parte della Commissione verso le percepite violazioni della libertà e del pluralismo dell'informazione negli Stati membri sta, secondo noi, causando un effetto domino che porta a un peggioramento del sistema dell'informazione in tutta Europa. Quindi abbiamo deciso di utilizzare questo nuovo strumento di democrazia partecipativa, che ricordo permette ad almeno 1 milione di cittadini da almeno 7 paesi europei di presentare una proposta di legge direttamente alla Commissione europea. Abbiamo deciso di usare questo strumento di democrazia partecipativa, dicevo, per chiedere che la Commissione esca con una direttiva per la protezione del pluralismo e della libertà di informazione e contro ogni concentrazione del mercato mediatico negli Stati membri. Ci sembra che in un momento in cui la Commissione e le istituzioni europee sono sempre più presenti nel sanzionare i deficit di bilancio, è forse arrivata l'ora che siano presenti anche per sanzionare i deficit di libertà civili. Certo, quante firme avete raccolto? Ma le firme si potranno raccogliere dopo il lancio dell'iniziativa, che avverrà appunto il 31 maggio a Bruxelles e il 2 giugno al Teatro Valle di Roma. Quindi questo è il lancio dell'iniziativa, appunto, prima iniziativa dei cittadini europei, di questo importante strumento, perché leggevo servono, dico bene, un milione di firme da 7 nazioni diverse, può essere? Sì, okay. Almeno 1 milione di firme da almeno 7 paesi. Ok, quindi insomma vuol dire un forte coinvolgimento, sì, transeuropeo. Sì, questo è uno degli elementi più importanti dell'iniziativa. Non è solo la proposta legislativa che si richiede, ma anche l'effetto di costruzione di un'effettiva rete transnazionale per la difesa del pluralismo dell'informazione. Attualmente abbiamo 9 paesi che partecipano già all'iniziativa e ogni paese si è formato un coordinamento nazionale. E questi 9 coordinatori si incontreranno a Bruxelles il 31 maggio. Esiste già un'infrastruttura che coinvolge il mondo dell'associazionismo, sì, media, federazioni della stampa, dal Portogallo alla Bulgaria. E questo è molto importante anche proprio come costruzione di capacità di fare politica a livello europeo, da parte della cittadinanza, chiaramente. Certo. TransEuropeaFestival.eu, il sito per conoscere l'intero programma e tutte le iniziative promosse in questo agorà finale di Trans Europa Festival. Ciao Lorenzo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Have you turned? Saranno 70 milioni, 80 milioni gli spettatori che probabilmente questa sera seguiranno la finale dell'Eurovision Song Contest, questo festival europeo nato nel 56, uno degli eventi televisivi ma non solo più importanti in Europa. Anche la cultura, anche la musica, tante volte l'abbiamo detto, fanno l'Unione Europea. Questa tra l'altro è un'Europa allargata anche al di fuori della zona euro. L'edizione 2012 si tiene a Baku, siamo in Azerbaijan e la rappresentante italiana, anche se ha cantato e canterà in inglese, Nina Zilli. E Nina è qua con noi, ciao Nina. Ciao Fede, buongiorno a tutti. Buon sabato, allora una grande festa. Esatto, sì, qua è una cosa incredibile, cioè, ma proprio da non credersi. Cioè, a parte lo skyline di Baku, che è un consumo, uno spreco energetico unico, nel senso che ci sono luci dappertutto, cioè la cristallone è, non lo so, ma è una cosa gigante, sembrano una crocchia di diamanti di 20 metri a formare un'arena che devo dire che è lo stage più fico sul quale io abbia mai cantato. Perché è tutto molto molto spettacolare, vero? È una cosa pazzesca, poi usano un sacco i LED, quindi anche al di fuori è tutta illuminata, cambia colore continuamente, crea fasci di luce nel cielo, è una roba impressionante, veramente. E Nina, appunto ogni nazione porta il proprio rappresentante, abbiamo visto anche esibirsi artisti molto folcloristici, diciamo, com'è il dietro le quinte? Sì, esatto, esatto, questa tua espressione mi sembra corretta. Eh sì, perché c'è un po' di tutto, poi ovviamente c'è anche tutta quella parte d'Europa che ama, che adora la musica dance e quindi ci sono tante canzoni danzerecce. Uh-huh. E tu hai studiato all'estero per tanti anni, in Irlanda se non ricordo male. Ero in Irlanda quando ero bimba, mamma mi mandò lì insomma per imparare l'inglese e poi così alla fine delle superiori di mia sponte mi sono trasferita negli Stati Uniti per un paio d'anni. Ecco, e che dimensione si respira lì? Cioè com'è il dietro le quinte? Comunque al di là del folklore si respira, immagino... Dietro le quinte è serissimo, Federico, è una cosa, cioè c'è un'organizzazione pazzesca, è tutto incasellato, tutto perfetto, tutto preciso. Devo dire che veramente qui non si è mai di corsa, a differenza per esempio, non so, del nostro Festival di Sanremo, no? Che uno fa sempre paragoni, ma in realtà questa cosa qui è molto più mastodontica, sembra uno di quei festival veramente di livello internazionali, quindi il livello è veramente alto, anche i tecnici sono tutti super professionali. 42 nazioni in gara, hai fatto amicizia, hai legato con qualcuno, hai avuto tempo o modo di fare quattro chiacchiere con qualche altro artista? Sì, ovviamente ho avuto il piacere di conoscere Angoon, che è una grandissima comunque artista, una grandissima voce, una persona molto piacevole, e ci siamo guardate insieme anche a Lorin, eravamo noi tre, io ci ho battezzato le tre streghe di Baku invece delle tre streghe di Istik. Ci siamo guardate insieme alla prima semifinale, poi ho fatto un concertino con Roman, il ragazzo che porta la Germania. E poi vabbè, qui ci si incontra anche la ragazza olandese, devo dire, molto piacevole, insomma siamo tutti sorridenti. Poi io ovviamente la competizione sento di non pensare alla gara, ecco, come sempre del resto. Questa sera mi centrerò solo sul fare del mio meglio. Questa sera su Rai 2, ma anche in diretta streaming sul sito ufficiale Eurovision.tv, lo senti questo peso di rappresentare l'Italia e comunque gli altri ti riconoscono come italiana? Beh, assolutamente. Poi devo dire che qui gli italiani sono adorati. Cioè in Azerbaigian proprio ci vedono come se fossimo, non so, delle persone speciali. E questo, vabbè, mi fa molto piacere. Poi ovviamente qui davvero c'è un clima proprio molto rilassato nel backstage dietro le quinte. Siamo tutti sorridenti. C'è un grande brusio, ovviamente. Beh, io, vabbè, il peso non è che lo senta. Cioè io spero di rappresentare l'Italia al meglio. Ecco. Anche tu, non mettermi queste pressioni. No, hai ragione. Hai già scelto il look per la finalissima? Ce lo puoi anticipare via radio? Certo, l'ho scelto, sarà un vestito tutto argentato. Ecco, così, giusto per non dare nell'occhio, vero? Esatto. No, però in realtà io mi sono mantenuta molto sobria sia nei visual, insomma, niente fuochi di artificio, niente botti, niente nebbia, niente vento. Ok. Per cui, ecco, diciamo che sono molto minimal rispetto alla media. Ciao Nina, vedremo, vedremo, chissà cosa porterai a casa da lì. Grazie intanto, in bocca al lupo e come sempre divertiti. Grazie a te Fede, un bacio grande, mi raccomando, incrociate le dita. Tutto per te, ciao Nina. Ciao. Forget all cosmetic, you need new poetic, aesthetic, classic, dialectic. Be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic to stop change, climatic, automatic, need contribution from the institution to find solution for pollution to save the children of the evolution. Anche satira rock all'Eurovision, lo state ascoltando, questo è Euro Neuro, che è stato un po' il pezzo cult lanciato dal montenegrino Rambo Amadeus. Si fa satira anche sull'euro e con questa satira chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, Margherita, Ina e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Gian Gabriel Lombardo oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito. Vi ricordo che sabato prossimo saremo in diretta da Trento, dove si tiene il Festival dell'Economia, e noi saremo là con una puntata speciale dedicata interamente al festival. Grazie ancora, buon sabato da Federico Taddia. Ciao.